Questa era la sigla di questa trasmissione, cioè sigla iniziale, ovvero Retribution dei Behind Enemy Lines, e appunto questa è Zardins Magnetics in diretta radiofonica ogni giovedì dalle ore 20:10 alle 21:30. Andiamo ora invece all'ascolto di alcuni brani di questa band storica inglese, datata, cioè la nascita di questa band era proprio anche fine anni 70, comunque è tuttora attiva, e dal loro ultimo album, datato 2016, ci ascoltiamo un paio di brani. Loro sono i Discharge e l'album è End of Days. Giovedì 14 maggio a Bolzano c'è stata la sentenza di primo grado del processo del corteo del 7 maggio 2016 avvenuto al Brennero in Alto Adige, e era il secondo troncone questa volta ad arrivare a sentenza, troncone di 63 compagni e compagne accusati questa volta rispetto agli altri di reati gravi come devastazione e saccheggio, in cui i PM avevano richiesto fino a 10 anni di reclusione. Da sottolineare che il processo si è svolto con rito abbreviato, quindi tutte le condanne che sono state comminate ai compagni sono già previste di un sconto appunto di un terzo della pena per via del rito, e questo fa proprio capire come il giudice in realtà ha assecondato le tesi dei PM. Cioè, da una parte non ha accettato, non ha dato valore alla tesi della devastazione e saccheggio, quindi il reato più grave, quello che va da 7 a 15 anni, è finito nel cestino. In realtà il PM, i PM sono riusciti a far sì che il giudice tenesse in piedi invece la questione che quel corteo era stato organizzato con premeditazione, con capi, sottocapi e manovalanza. Da sottolineare come fatto più significativo e emblematico è che il compagno che ha preso più anni, cioè 6, quel giorno il corteo impugnava semplicemente un megafono durante tutta la manifestazione. Tanti compagni hanno preso condanne tra i 2 e i 5 rotti anni, altri hanno circa 18, anzi hanno la pena sospesa. Diciamo che le pene son gravi perché se appunto non è passato il reato più grave, in realtà sono rimaste in piedi danneggiamento e resistenza, ma quello che ha fatto salire le condanne è l'utilizzo del concorso morale, quindi anche se tanti compagni non avevano prove così forti che li portavano ad essere accusati di tutta una serie di reati, e con quella cavillo burocratico, cioè del concorso morale, appunto, il giudice ha fatto sì che a decine di compagni fossero comminati anni e anni di galera. Ma per spiegare un po' quella giornata bisogna fare un attimo un passo indietro, perché centinaia di compagni e compagne, di persone che hanno in odio i confini, sono arrivate fino al Brennero, paesina di 80 abitanti, perché in quella primavera del 2016 decine e decine di immigrati morivano sotto i treni merci delle ferrovie dello Stato, o morivano per il freddo, o comunque venivano trattati, diciamo, malamente dalle polizie del trilaterale, quindi le polizie di Germania, Austria e Italia, che in quel periodo facevano i controlli sull'asse Verona-Monaco. I compagni in quel periodo avevano deciso di affrontare la situazione di petto, cercando di mobilitare la società trentina, ma anche soprattutto i compagni, per dare un segnale chiaro a chi commetteva questi delitti, a chi faceva questi assassini e chi stava soprattutto zitto di fronte a queste cose nel placido Trentino democratico. Lo slogan è sempre stato, diciamo, uno, è molto semplice: se non passano le persone, non passano le merci. Quindi si era creata una mobilitazione, appunto, con presentazione del corteo in varie parti d'Italia, ma anche all'estero, come Atene, Berlino, in Svizzera, in Austria, eccetera, per far sì che quella manifestazione culminasse in una, diciamo, semplice, tra virgolette, occupazione delle ferrovie e dell'autostrada che erano al fianco della strada principale di questo paese di montagna sul valico. E quindi con tutta questa preparazione con anche un discorso etico di dire perché no alle frontiere, e ci si era mossi verso quel paese per fare questa protesta contro i confini. Quel giorno, mentre si stava andando verso il centro del paese per spostarsi verso la stazione per occuparla, tenete conto che c'erano più o meno 1.000 poliziotti italiani, altri 1.000 dall'altro lato del confine austriaci, e si è arrivati allo scontro, quindi è stata una giornata di lotta a tutti gli effetti, situazione difficile che noi avevamo ben prima pronosticato nei mesi precedenti, dicendo noi andiamo lì con un discorso etico, sapendo benissimo che sarebbe stata una giornata a dir poco difficile. E da quegli scontri appunto si è arrivati a un processo in cui le condanne ammontano solo per il troncone con questi reati più gravi a 116 anni. Nell'altro troncone, sempre di 63 imputati, le pene erano più lievi perché i reati accusati erano di travisamento e adunata sediziosa. Nel comunicato che abbiamo fatto dopo la sentenza di venerdì, quello che ci preme dire in questi giorni è semplicemente che da una parte stanno arrivando migliaia di immigrati, no? Pensiamo in questi giorni al Marocco, al Mar Adriatico e anche qua vicino a casa nostra, sul confine sloveno, di quante persone per un motivo o per altro stanno decidendo di venire in questa Europa, vecchia Europa, e sicuramente si stanno trovando in un contesto in cui i confini, che siano statali, che siano medici, che siano per un documento o per una divisa, il game, come viene chiamato, è sempre in fase di rinnovamento, una parte dall'altra della barricata. Ma ancora di più oggi bisogna osservare il nesso tra i confini appunto tecnologici, quindi pensiamo ai droni, il controllo delle frontiere tramite Frontex o sensori e tutti gli azzeccagarbugli che stanno utilizzando per fermare le persone, per controllarle. Ecco che ci troviamo in un contesto di guerra come sta succedendo in Palestina. E che ci preme dire ancora più del solito in questi giorni che che le frontiere vanno abbattute per la libertà di tutti e tutte. Vi consigliamo di leggere sul sito irrovescio.info l'aggiornamento su appunto la sentenza del Brennero, e in cui c'è anche la dichiarazione che abbiamo fatto in varie imputate e imputati rispetto a questo processo, e anche uno scritto di un compagno che fa un parallelismo tra, appunto, tra confine tecnologico e confine statale, nazionale di questi tempi. Questi che abbiamo ascoltato, ma anche durante l'intervento in precedenza, ben quattro brani. Abbiamo ascoltato i Discharge, storica band inglese, degli anni, diciamo, il loro successo maggiore è stato negli anni 80. Comunque una band che si è riformata, ha magari avuto alcuni così cambiamenti di formazione, ma quella attuale, ovvero di questo album, l'ultimo 2016, è, diciamo, alla fine è una band che si è riformata quasi totalmente dall'inizio, perché dopo vari cambiamenti i componenti sono quasi tutti quelli iniziali. Comunque, al di là di quello, ora ci ascoltiamo un brano di questa band olandese, Civil War. Cuddle, I started extreme. You can sit down and say E a tutte, buona serata. La scorsa settimana vi parlavo qui dalle frequenze di Zaldin Spagnetics di quanto sta accadendo in Palestina. E gli eventi sono andati avanti nella loro drammaticità, stiamo arrivando a 200 morti a Gaza sotto i bombardamenti israeliani. E il popolo palestinese continua comunque a resistere con il lancio di missili da Gaza sulle città dei sionisti, in mano ai sionisti, sulle colonie. Vi sono ancora mobilitazioni a Gerusalemme Est contro la pulizia etnica, ugualmente in Cisgiordania. Continua sia a Gerusalemme Est che in Cisgiordania la violenta repressione dell'esercito e della polizia israeliana. Mobilitazioni popolari si sono svolte anche in Libano e in Siria, presso i confini. In Libano c'è stata anche l'uccisione di un manifestante da parte di un cecchino dell'esercito israeliano. Quello che è positivo è il fatto che a livello mondiale stiamo assistendo a una mobilitazione in sostegno al popolo palestinese contro l'aggressione israeliana. La scorsa settimana, sabato, eravamo in Largo Barriera, qui a Trieste, in un presidio promosso dal Comitato Boicotta Disinvesti Sanziona, BDS di Trieste. Questa settimana saremo invece in Piazza Unità alle 16:30 sabato, sempre sabato, quindi sabato 22, e in Piazza Unità davanti al comune. E vi darò oggi adesso lettura del volantino che abbiamo diffuso sabato scorso, che riassume un po' quello che è accaduto e ricorda anche la Nakba, perché il 15 maggio, sabato scorso, cadeva l'anniversario della fondazione dello Stato di Israele per i palestinesi, la Nakba, cioè la catastrofe. Fermiamo l'aggressione israeliana al popolo palestinese. 73 anni fa iniziava l'occupazione della Palestina, con la fondazione del regime sionista israeliano e la conseguente pulizia etnica di più di 700.000 palestinesi dalle loro terre. Oggi il popolo palestinese è di nuovo sotto attacco di Israele, le cui bombe stanno causando decine di morti e feriti, tra cui molte donne e bambini. I mass media vogliono farci passare gli aggressori israeliani come vittime, ribaltando la realtà. Infatti, questa nuova fase di guerra nasce dalle provocazioni israeliane che vanno avanti da settimane, con gli attacchi dei coloni e dell'esercito al quartiere di Sheikh Jarrah per sfrattare i residenti palestinesi ed espellerli definitivamente da Gerusalemme, con l'aggressione della polizia sulla spianata delle moschee, terzo luogo santo per importanza dell'Islam, con lanci di lacrimogeni, bombe assordanti fino all'interno della moschea di Al-Aqsa. Dopo la risposta della resistenza con lanci di razzi dalla striscia di Gaza, sono iniziati i bombardamenti che finora hanno causato più di 100 morti e centinaia di feriti. Ecco, vi dicevo prima che sono arrivati purtroppo a 200 i morti. I palestinesi però resistono. Da Gerusalemme alla Cisgiordania, dalle città israeliane con forti minoranze arabe a Gaza. Non ne possono più dell'occupazione dell'apartheid a cui sono sottoposti da più di 70 anni, del furto delle loro terre da parte di fanatici coloni razzisti, degli assassini, della galera, delle torture a cui sono sottoposti perfino i giovanissimi, della disoccupazione, della povertà, della vita in condizioni difficilissime e della corruzione dei vertici dell'autorità nazionale palestinese di Abu Mazen. E non ne possono più della complicità con Israele di UE e Stati Uniti, che perseguono solo i loro interessi economici di dominio alla faccia dei diritti umani, sbandierati solo quando fa comodo. Sosteniamo la lotta dei palestinesi contro l'aggressione sionista e per la libertà della loro terra. Ecco, questo è il volantino che abbiamo diffuso sabato, comunque con una discreta partecipazione, perché per i numeri, insomma, di Trieste eravamo comunque un'ottantina, tanti giovani, insomma, in qualche maniera ci siamo fatti sentire, anche perché era da tempo che non c'era una mobilitazione così con numeri, ecco, rilevanti, comunque in solidarietà al popolo palestinese, e quindi, insomma, speriamo che sabato 22, comunque ci saranno, ecco, partecipanti, ecco. Eccoci di nuovo qui, vi dicevo prima della nuova manifestazione che terremo a Trieste come assemblea di solidarietà con la Palestina, composta da varie realtà, tra cui il comitato BDS Boicotta, Disinvesti, Sanziona di Trieste. L'appuntamento è in Piazza Unità alle 16:30 davanti al comune. Saremo davanti al comune anche per lanciare un messaggio, dire qualcosa in merito a quanto ha fatto il sindaco di Trieste e di Piazza, che nei primi giorni dei bombardamenti ha pensato bene di sfilare da solo in Piazza Unità con la bandiera israeliana. Ecco, non è la prima volta che di Piazza compie delle provocazioni. Questa provocazione è fra le più odiose, ed è odioso anche il motivo con cui è stata gestita a livello giornalistico dallo stesso di Piazza. Lui ha detto: il popolo ebraico ha sofferto troppo, le città israeliane vengono bombardate da Hamas, ho voluto fare questo in solidarietà a Israele. Ecco, insomma, con 200 morti in queste ore palestinesi, di cui circa 60 bambini, di Piazza sarà contento della sua solidarietà agli israeliani. E sui palestinesi ovviamente lui non ha nulla a cosa dire, ecco. E assurdo ancora di più è lo specifico insomma, il discorso, il solito discorso sul più o meno esplicito sull'antisemitismo e sulla giustificazione di Israele dell'occupazione della Palestina in base a quanto è avvenuto in Europa, insomma, con la Shoah patita dagli ebrei europei, ecco. È assurdo perché Di Piazza è uno che durante le cerimonie pubbliche patriottiche qua a Trieste onora il labaro della decima Hamas, cioè di un corpo collaborazionista del Terzo Reich. Di Piazza è quello che ha sempre fatto, ad esempio, della celebrazione dei cosiddetti martiri delle foibe, una delle sue bandiere politiche. Ricordiamo che i cosiddetti martiri delle foibe sono per lo più collaborazionisti del Terzo Reich, o del regime fascista prima, persone compromesse con quel regime, quindi compromesse, anzi responsabili del genocidio degli ebrei. Di Piazza è lo stesso che è stato visto salutare romanamente, insomma, col braccio teso. Di Piazza è lo stesso che, rispetto a delle insistenze da lui, secondo lui, a cui sarebbe stato testimone, da parte di un ragazzo nero che vendeva soliti accendini, chincaglierie, eccetera, lo avrebbe preso per il bavaro, preso il negro per il bavaro, ha rivendicato. Di Piazza è lo stesso che è andato a salutare Forza Nuova a nome della città e al congresso di Forza Nuova per le scorse elezioni politiche. Di Piazza è lo stesso che becca i voti in consiglio comunale del signor Tujak, che rivendica tranquillamente il suo antisemitismo, il suo odio verso gli ebrei, oltre che molte altre categorie. E, insomma, Di Piazza è quello che ha censurato la mostra sulle leggi razziali realizzato dalle studentesse e dagli studenti del Petrarca, che non voleva che venisse dedicata la sala comunale perché è troppo divisiva. Pensate, ecco, troppo divisiva a parlare del razzismo istituzionale durante il fascismo in Italia. Ecco, questo è Roberto Di Piazza. E questa persona, questo essere, si sente in dovere di esprimere solidarietà agli ebrei, come se ci fosse un perfetto allineamento degli ebrei allo Stato di Israele, che è uno delle fandonie che sta dietro allo Stato di Israele, paragonabile a quella appunto del ventennio mussoliniano: tutti gli italiani sono fascisti, lo Stato etico e etnico. Che oggi l'etnicismo, insomma, è sancito ufficialmente anche dalla legge del 2019 sullo Stato-nazione degli ebrei, definito così, si è autodefinito così nell'estate del 2019 Israele, anche usurpando, dico io, usurpando e strumentalizzando l'identità ebraica per il colonialismo, insomma. Ecco, Di Piazza, celebratore degli antisemiti, amico degli antisemiti, si sente in dovere di dire questo e insomma, si sente in dovere di sventolare una bandiera israeliana in solidarietà agli ebrei, ecco. Gli amici di Israele sono questi, ecco. Mi sembra che sono amici degni di chi sta massacrando centinaia di persone in Palestina, ecco. Fascisti di tutto il mondo, unitevi in nome del sionismo. Gli altri, gli oppressi, gli antifascisti, gli antirazzisti, sanno da che parte stare, stanno dalla parte del popolo palestinese in lotta contro il colonialismo. Così vi dicevo poco fa della mobilitazione lanciata nuovamente per sabato, quindi sabato 22 maggio alle 16:30 in Piazza Unità, e nuovamente al fianco del popolo palestinese, e anche saremo in Piazza Unità davanti al municipio per dire qualcosa anche a Di Piazza, al sindaco di Trieste. E apologeta della decima Hamas, di criminali nazisti vari, che poi sfila nei primi giorni dei bombardamenti israeliani su Gaza con la bandiera israeliana da solo in Piazza Unità, ecco, in solidarietà agli ebrei, dice lui, e il resto dell'anno. Mette i gagliardetti e stringe le mani a quelli che portano i labari della decima Hamas, onora, va a portare gli onori ai convegni di Forza Nuova, eccetera, eccetera. E, tra l'altro, sì, mi sono ricordato nel frattempo del degno compare di Di Piazza, che è vice sindaco, l'uomo della sicurezza qua a Trieste, il capo dei vigili, il signor Polidori, leghista, che nel 2012 a un convegno della Lega qua a Trieste aveva detto che aveva parlato del potere finanziario del governo Monti, eccetera, aveva detto che sono in mano alle lobby giudaico-massoniche, e quindi, insomma, riecheggiando la classica retorica fascista, per cui il problema non è di classe rispetto alla finanza, rispetto al capitalismo, ma è di razza. Ecco, la classica storiella dei fascisti, e nel 2014 ha patteggiato per istigazione all'odio razziale, e qui di fronte al Tribunale di Trieste la pena. Ecco, quindi, insomma, questi sono quelli che danno poi lezioni, patenti di antisemitismo, lezioni di etica verso gli ebrei, insomma. Salvini, la Lega, i più grandi sdoganatori dei fascisti qua nel nostro paese, il partito razzista, quello che è il partito delle frontiere blindate, delle stragi nel Mediterraneo, l'esaltatore dei CPR, eccetera, eccetera, e poi il partito antirazzista quando bisogna parlare di Israele. Ecco, questi sono i degni, ripeto, i degni amici di Israele a livello mondiale, non solo qui, insomma, perché poi c'è Orban, c'è Bolsonaro, c'era Trump e Biden non è di meno perché di armi e di sostegno politico a Israele ne sta dando moltissimo, ma in particolare c'è una destra, ecco, che va in tutto il mondo, che sta guardando sempre più a Israele come modello reazionario, razzista, islamofobo, eccetera, eccetera. E quindi ripeto l'appuntamento per tutti coloro che vogliono esprimere la solidarietà al popolo palestinese, Trieste, Piazza Unità. Sabato 22 alle 16:30, mi raccomando, chi può venga, insomma, per quantomeno manifestare, ecco, ma quantomeno manifestare rispetto alla strage che sta accadendo e dire che si sta dalla parte di, io penso anche questo, dire che si sta dalla parte di chi resiste, combatte per la sua terra. Allora, per chi può, ci vediamo sabato alle 16:30 in Piazza Unità, qui a Trieste. Sì, e un saluto anche da parte mia a tutte le compagne e compagni in ascolto, invece una pernacchia agli spioni. E no, dopo i due interventi interessanti dei compagni che mi hanno preceduta, prima di finalmente fare un intervento che dovevo già fare la scorsa settimana, ma poi la scorsa settimana ho avuto dei problemi, non sono riuscita a venire in diretta. Volevo, appunto, ricollegandomi sia al discorso della manifestazione al Brennero e delle pesanti condanne ricevute dai compagni e dalle compagne, sia alla faccenda di quello che sta patendo la Palestina e, insomma, della solidarietà da dare, appunto, ai palestinesi. E volevo dire che anche a Udine oggi c'è stato un presidio solidale con il popolo palestinese alle 18, davanti alla prefettura, e in quella occasione abbiamo volantinato, appunto, uno scritto che fa un resoconto appunto sulla manifestazione al Brennero e poi anche un contributo di un compagno che in questo momento ha gli arresti domiciliari, che ha scritto per il presidio di solidarietà che si è svolto a Bolzano appunto in seguito alla sentenza. Vi leggo una piccolissima parte di questo contributo. Per essere il primo paese al mondo a vaccinare la propria popolazione, lo Stato israeliano non solo ha acquistato le fiale di Pfizer al doppio del loro prezzo di mercato, ma ha fornito alla multinazionale statunitense i dati sanitari personali di tutti i vaccinati. I cittadini dell'unica democrazia in Medio Oriente, tra virgolette, trasformati in cavie da esperimento in materia prima per l'industria farmaceutica. Del tutto a proposito, l'amministratore delegato di Pfizer ha definito lo Stato di Israele il laboratorio del mondo. Il pass vaccinale, introdotto subito dopo, ha tracciato il confine interno tra chi si fida della scienza di Stato e chi recalcitra, ma è diventato allo stesso tempo una nuova frontiera esterna, un nuovo checkpoint per i palestinesi. Finita l'operazione Israele Covid-free, o meglio resa permanente con le future e periodiche rivaccinazioni, è ripresa con più ferocia a Gerusalemme Est l'operazione Israele Arabian Free, con sfratti di famiglie palestinesi, distruzione della moschea di Al-Aqsa, esecuzioni per le vie di Sheikh Jarrah da parte di coloni, militanti di estrema destra e soldati, e poi i bombardamenti a Gaza. Vaccinare a tempi record i propri o bombardare con controllo da remoto i nemici sono due mosse possibili dello stesso quadrante dei comandi. Siamo in guerra, ci ripetono da oltre un anno, le metafore belli che vanno prese alla lettera. Il nemico è fuori, il nemico siamo noi, la natura, il palestinese, l'israeliano che diserta, l'umano. La macchina ha una soluzione per tutti e quattro, ma la macchina si può distruggere. Abbattere le frontiere, abbiamo urlato quel 7 maggio 2016 al Brennero. La portata e l'urgenza assoluta di quell'urlo oggi mi sono ancora più chiare. Qualche giovedì fa, qui a Zardins Magnetics, abbiamo parlato della caccia alle streghe, anche di quella attuale nella quale le streghe siamo noi, cioè sono le anarchiche e gli anarchici. E abbiamo parlato della necessità di non adattarsi alla neolingua del potere che utilizza termini specifici, infamanti, chiamiamoli, per designare reati, termini come terrorismo, strage. Quindi di non adattarsi a questa neolingua per cercare di che cerca di infangare le lotte. Ricordo che un compagno su questa questione affermava: ci sono voluti 3 secoli per vedere le donne, prime oppositrici e vittime del capitalismo, urlare in faccia al mondo: tremate, tremate, le streghe sono tornate. Dunque le donne per prime, le più oppresse, le più sfruttate, con il femminismo hanno avuto il coraggio di riappropriarsi del linguaggio del nemico e di cambiarlo di segno. Hanno avuto il coraggio di rovesciare le parole e far cambiare di campo la paura. Tremate voi che ci avete torturate e bruciate sul rogo. Siamo tornate e vi presentiamo il conto. Può essere vendetta, può non essere vendetta. In tutti i casi è riprendersi la vita dopo l'esproprio. Riprendersi la vita contro i padroni, contro i preti, contro il patriarcato, contro lo Stato. Tremate, tremate, le streghe sono tornate, fa pensare anche alla performatività del linguaggio. Possiamo fare cose con le parole, produrre possibilità di realtà, trasformare lo stigma nel nostro, tra virgolette, marchio di fabbrica. Vale per gli anarchici e le anarchiche, ma vale anche per il queer, per la rivolta Froccia. Ma questa performatività del linguaggio rimanda direttamente alla performatività dell'azione, della vita, cioè non è un semplice gioco di parole. E leggendo Judith Butler, che è una filosofa americ-californiana di una 60ina d'anni, lei ci dice, vi leggo: le pratiche sessuali ed esistenziali queer e transgender sono performative perché producono possibilità inedite di esistenza. Una loro definizione univoca non è possibile perché la loro vitalità sta in questo, che danno vita alla possibilità della loro esistenza esistendo. E proprio Judith Butler dice delle cose interessanti sul linguaggio dell'odio o linguaggio ingiurioso e sui provvedimenti legislativi che lo censurano e che intenderebbero proteggere chi ne è vittima. Lo fa nel libro Parole che provocano. In questo libro si parla degli Stati Uniti, ma il filo del discorso vale anche per lo Stato italiano. Butler ci dice che il linguaggio razzista, sessista, omofobo, transofobo, eccetera, è un assalto verbale, che il linguaggio oppressivo, e lei usa questa definizione di linguaggio oppressivo, diciamo prendendo spunto da ciò che dice la scrittrice afroamericana Toni Morrison. Dice appunto, dicono Butler e Morrison, il linguaggio oppressivo non si limita a rappresentare la violenza, è violenza. Può bloccare e paralizzare, ma può anche produrre una risposta inattesa che apre nuove possibilità. Tradotto con le mie parole, il linguaggio oppressivo verso di noi ci provoca, non lasciamo che ci annichilisca, facciamo sì che ci provochi a rovesciare tutto, a spaccare tutto. Così con le parole di Butler. La capacità di agire attraverso il linguaggio fornisce un'alternativa alla ricerca di un rimedio giuridico legale. Ma il filo del discorso non si ferma qui, va avanti e arriva a sostenere la necessità del rifiuto della violenza di Stato in risposta al lutto collettivo, come anche il rifiuto da parte delle minoranze di pratiche istituzionali, autoritarie, securitarie e razziste in loro difesa. Butler allerta sul rischio di una deriva razzista islamofobica che anche i movimenti LGBTQI+ possono correre se cadono nel tranello dell'accettazione delle politiche securitarie messe in atto in modo sempre più stringente dagli stati dell'ordine mondiale. E sempre qua dai microfoni di Zernis Magnetics approdiamo con la nostra riflessione al disegno di legge Zan, che recita: misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Andando a leggere per filo e per segno il disegno di legge, si vede che essenzialmente consiste nell'aggiungere la frase virgolettata "oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere" a leggi o articoli del codice penale più centrati sulla discriminazione razziale, etnica e religiosa. Ad esempio la legge Mancino, ma anche il testo unico in materia di immigrazione, quello che ha istituito i centri di permanenza temporanea, CPT, poi trasformati in CIE, centri di identificazione ed espulsione, ed infine in CPR, centri di permanenza per i rimpatri. Perché il fatto è questo: le norme che affrontano la questione della discriminazione razziale o etnica sono contenute in quelle leggi che regolamentano l'immigrazione e che sono quelle stesse leggi che fondano il razzismo di Stato. Similmente, le norme che affrontano la questione della violenza di genere fanno parte dei pacchetti sicurezza e delle operazioni strade sicure che portano avanti la guerra ai poveri e la militarizzazione dei territori. Con questi fatti bisogna fare i conti. Inoltre, come possono le realtà LGBTQI+, che sostengono il DDL Zan, invocare carcere e pene più severe quando il carcere non è la soluzione, ma è una parte preponderante del problema della violenza? E riporre fiducia nei sistemi di polizia e nei tribunali che storicamente portano avanti la cultura della discriminazione e dello stupro? Facciamo degli esempi. Dai processi per stupro, dove chi ha subito violenza spesso non è creduta o è accusata di andarsela a cercare, alle violenze minacciate o praticate da parte della polizia durante la repressione di manifestazioni politiche. Per fare due esempi, pensiamo alla lotta Nottav, pensiamo al G8 di Genova. Agli stupri all'interno delle strutture di detenzione. Ricordiamo, a questo proposito, vale la pena di ricordare, anche se sono passati 11 anni, il caso emblematico di Joy e di altre donne nigeriane che hanno avuto il coraggio di denunciare l'ispettore capo, adesso si può dire il nome perché era sui giornali, che all'interno del CIE di Modena aveva abusato del suo potere cercando di stuprarle. Facciamo altri esempi del qui e ora. A Vicenza, il 10 aprile 2021, Abderrahmane Ben Moussa viene aggredito da un vicino al grido "ricchione di merda", ma lui non si abbatte e decide di andare all'attacco, tirando fuori un taglierino per difendersi e rispondere alla violenza dell'aggressore. Risultato: viene denunciato l'aggredito per minaccia e gli viene sequestrato il taglierino. Udine, 17 aprile 2021, una prostituta non viene pagata dal suo cliente e così trattiene il suo smartphone. Il cliente la denuncia ai carabinieri, che individuano la donna, recuperano lo smartphone e ora questa donna dovrà rispondere delle ipotesi di reato di furto e ricettazione. E ancora Udine, 20 aprile 2021, il pubblico ministero archivia il 100 stupri. A giugno 2020, 8 rampolli della borghesia imprenditoriale friulana fanno le loro festicciole del tubo indossando una maglietta con scritto "centro stupri" in locali pubblici dove avevano prenotato con lo stesso epiteto. Gli stessi rampolli si lanciano poi sui social con frasi sessiste e nazifasciste. Ora il pubblico ministero chiede l'archiviazione perché il loro comportamento non ha determinato i rischi previsti dal reato. La legge protegge i figli della borghesia, non ce ne meravigliamo. Che cosa emerge da tutto ciò? Che la legge è classista e sessista e razzista. La legge è la sanzione formale di un rapporto di forza, è fatta da chi detiene il potere ed è destinata alle oppresse e agli oppressi. Che cosa emerge quindi? Emerge che lo Stato protegge e tutela solo quei soggetti che accettano di essere normalizzati e che non costituiscono un pericolo per il sistema stesso. Se tu ti riconosci come vittima, ti metti dentro o comunque al servizio del sistema. Se invece ti ribelli, prendi la tua forza nelle tue mani, allora potresti costituire un pericolo per lo Stato e allora nessuno ti protegge. Più, anzi, le leggi protezioniste ti si rivoltano contro. Se rompi con la retorica vittimista, vieni denunciato e perseguito. Ma allora, in cosa consiste la comunità LGBTQI+, che porta avanti il DDL Zan? Forse consiste in una comunità che ha abbandonato ogni istanza rivoluzionaria e di sovvertimento della realtà esistente. Non è una comunità performativa, non produce possibilità di esistenza fuori dal sistema patriarcale, capitalista, neoliberista. Ma è una comunità di replicanti che vuole inserirsi nel sistema. A noi questo approccio non interessa, non vogliamo essere protette e protetti dallo Stato e diventare così il lasciapassare delle democrazie autoritarie. Ci interessa capire le forme in cui la violenza di genere, omofoba, transofoba, in cui la violenza oppressiva si sviluppa e colpisce e studiare i modi per combatterla. Ci interessa la lotta e l'autodifesa transfemminista. God, let's protect it while we can. That's all there is, and there ain't no more. Sì, ritorniamo in diretta per così parlare brevemente, ma ci tenevo a parlare di questi due scioperi della fame di due persone detenute. E partiamo con Belmonte Cavazza, che è uno dei cinque detenuti che hanno denunciato ciò che è successo a Modena nell'8 marzo 2020 e poi nei giorni successivi, cioè la strage di detenuti. E allora Belmonte Cavazza è stato trasferito presso la casa lavoro di Castelfranco Emilia, vicino a Modena. Il 19 aprile ha finito di scontare la sua pena, una pena pesante perché sono 19 anni di carcere. Però il 23 aprile non è stato liberato, come si aspettava, ma trasferito nella casa lavoro a causa di una misura di sicurezza che lo perseguita dal 2003. A causa di questa ingiustizia, il 27 aprile Belmonte ha intrapreso uno sciopero della fame e ci dice: Ho intrapreso uno sciopero della fame perché da diversi anni mi tengono sequestrato dallo Stato italiano e quindi non ho altra via per protestare. Mi trattengono con delle normative di Benito Mussolini del 33 e poi festeggiano la liberazione dal fascismo. E un'altra compagna in sciopero della fame è Fabiola alle Vallette. E vi leggo la sua dichiarazione. Io Fabiola, detenuta nel carcere delle Vallette dal 31/12/2020, da oggi 17 maggio comincio lo sciopero della fame perché mi vengono negati i colloqui con qualsiasi altra persona che non sia mio padre e mi sono state tolte le videochiamate con il mio compagno per un problema di contratto telefonico e mai ripristinate a problema risolto. Essendomi negati i colloqui, nonostante l'approvazione da parte del magistrato di sorveglianza Elena Massucco, in data 28 aprile 2021, ho deciso che da questa mattina non mangerò più fino a quando non mi sarà garantito il diritto alla mia affettività. Intanto volevo ricordare che prima tra i vari interventi abbiamo ascoltato alcuni brani dei Wolf Brigade, band svedese, dal loro album che era l'ultimo del 2019, che si chiamava The Enemy Reality. Poi abbiamo pure ascoltato un brano dei Dead Kennedys, storica band del punk hardcore statunitense, ed era un loro album del 1985 che si chiamava Frankenchrist. Mentre ora invece, anche in sottofondo, e comunque ci ascolteremo ancora un paio di brani, c'è questo ultimissimo album degli Inner Terrestrial, band londinese, che si chiama Heart of the Free, e rimaniamo all'ascolto appunto degli Inner Terrestrial. So easy to say with a sword, but let's not dwell on the past, it was so long ago. Say the ancient overlords, you're quick or you're dead, is the message that they shout out. Others' weaknesses you're opening, their weaknesses you're opening, so strike on without doubt. We serve our masses, walk blindly where we're led. They got us all, they got us all. Self-respect has fled. We are the fools, we are the fools. We serve our masses, walk blindly where we're led. To so a lifetime on your knees, till the fire inside is dead, dead. Time on your knees, till the fire inside is dead, dead, dead, dead, dead, dead. Bene, rimaniamo sempre con gli Inner Terrestrial, in sottofondo, per ricordare, prima della conclusione di questa trasmissione, che è Zardins Magnetics, che termina tra pochissimi minuti. È un programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine, dalle ore 20:10 alle 21:30 appunto. Allora, volevo anche ricordare i nostri contatti, che innanzitutto, se volete anche riascoltare questa trasmissione, ma anche quelle scorse, potete collegarvi con ovviamente la rete, e il nostro blog è zardinsmagneticsradio.noblogs.org. ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. mentre se ci volete scrivere, la nostra casella postale, ovviamente sempre mi riferisco alla rete, ovviamente a internet, c'è questa mail: liberetutti@autistiche.org. ripeto, liberetutti@autistiche.org. per chi invece volesse scriverci col classico sistema cartaceo, può farlo attraverso appunto quest'altro indirizzo, ovviamente, associazione senza sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121 Trieste. Ripeto anche questo: associazione senza sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121 Trieste. Bene, rimaniamo allora all'ascolto degli Inner Terrestrial da questo loro ultimo album uscito pochissime settimane fa. Ciao a tutti e al prossimo giovedì. The more you steal, the more you feel you must protect. Are you wealthy or just a thief at heart? If I appear nonchalant, it's cause I won't kiss us and there is nothing here I want. I'll take my chances on the open road. I don't owe you shit cause I was never in your debt. You can't force me to drink from a poison well. And the crap you try to make me eat is laughable to me. Your ways are obsolete. You're the cloud that keeps the sun from my back.